sicuramente è un passo avanti in un, diciamo, in un tema che era incancrenito ormai su una posizione molto stabile, avanti tutta, una posizione che vedeva soltanto l'opportunità di altre costruzioni e di un'altra opera che sostanzialmente non fa che incrementare il numero di automobili che transitano da Bologna. Già lo studio regionale, ricordo, prevedeva un aumento giornaliero di 20.000 automobili grazie a questo allargamento previsto con il cosiddetto passante di mezzo. Uno studio del 2016 che poi non è mai stato rinnovato in previsione del PUMS, no? Del piano urbano della mobilità sostenibile. Stiamo investendo tanto sul tram, ben venga, ma appunto il tram dovrebbe spostare alcune quote di persone dall'automobile al trasporto pubblico, e quindi non sono mai state fatte delle revisioni, né sono state fatte delle revisioni con la pandemia, che ha modificato volenti o nolenti le abitudini di spostamento delle persone, riducendo di molto i movimenti con lo smart working e comunque una diminuzione della mobilità. Quindi non è mai stato fatto nulla in questi anni. È un peccato che si sia perso tempo quando il progetto era uno stadio, diciamo, meno avanzato. Adesso siamo agli sgoccioli, e quindi chi si candida a gestire la città per i prossimi 5 anni deve chiaramente prendere posizione, bene che lo faccia. Il problema è se queste posizioni sono credibili e sono forti di anche una capacità operativa, perché chiaramente mentre, diciamo, Lepore è nell'attuale giunta, Conti non è nell'attuale giunta, però come sindaca di un comune della città metropolitana ha comunque partecipato a questa alla progettazione di quest'opera in questi anni. Nello specifico si è parlato però di un miglioramento, non di un superamento, di un abbandono di questo progetto. Secondo voi è migliorabile il progetto, o qual è, insomma, la vostra posizione? La nostra posizione come Reca nel patto per il clima e per il lavoro che abbiamo consegnato alla Regione Emilia-Romagna siamo molto chiari: l'unico modo di migliorare l'opera è fermarla, in un contesto in cui la mobilità automobilistica privata va in tutti i modi scoraggiata se vogliamo salvare il nostro territorio, sia dal punto di vista della qualità dell'aria, sia dal punto di vista del consumo di suolo. Ricordiamo che la tangenziale di Bologna è in questo momento l'infrastruttura che produce il 50% delle polveri sottili derivanti da trasporto, quindi stiamo parlando praticamente della più grossa fonte di inquinamento che i polmoni dei cittadini respirano. Quindi più che un miglioramento bisognerebbe veramente avere il coraggio di ripensare il modello di mobilità che noi proponiamo, offrendo chiaramente alternative. Senza l'offerta di alternative non si può bloccare, ma mi sembra che con il tram sull'offerta di alternative si sta ragionando. Quindi ben venga il tram, ma dobbiamo avere anche il coraggio di dire che il progetto del passante è un progetto sbagliato.